ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. Il sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate alle porte di Tannhäuser. Eccoci qua, ritrovati e ritrovate su Radio Wombat, ovviamente il 20 maggio 2024. Nella tana del Wombat inizia a sentirsi un certo caldo, effettivamente. Sì, sì, possiamo testimoniare che il livello di umidità è circa del 95%. E anche se fuori piovigino, comunque fa tempaccio, ma dentro la tana del Wombat fa caldissimo. Così magari lo volevate sapere. Devo dire però non ci sono poi così tante zanzare, perché in per realtà ora. Per ora aspetta. In giro per la città invece devo dire ce n'è veramente tante. Esatto, e le porte di Tannhäuser, come saprete, se non lo sapete ve lo spieghiamo, trasmissione che parla un lunedì su due di fantascienza e temi affini, fantastico, insomma tutto quello che ci apre un po' l'immaginazione. E abbiamo, la volta scorsa ci eravamo lasciati con un po' in sospeso effettivamente, perché avevamo iniziato a parlarvi di fantascienza e rivoluzione, e come molte volte succede, noi pensiamo di cavarcela con poco e poi ci rendiamo conto che abbiamo aperto un tombino, e quindi anche quella volta là ci siamo detti beh, effettivamente ne avremo molto di più da dire. E quindi eccoci a una seconda parte. Abbiamo diviso la puntata in due, quindi vi abbiamo lasciato un po' in sospeso con quelle che erano delle prime suggestioni per quanto riguardava il tema della rivoluzione, della rivolta all'interno della fantascienza. E continuiamo oggi, ci siamo autolasciati la parola e ce la riprendiamo adesso per continuare un po' questo viaggio. Un viaggio appunto dedicato alle rivoluzioni nella fantascienza, e oggi la prenderemo dal punto di vista di altre rivolte, cioè la rivoluzione, come abbiamo detto nell'apertura della volta scorsa, non per forza la rivoluzione tout court, anzi anche quello, ma purtroppo non è poi così presente nella letteratura. Non ci credono. Non ci credono, esatto, non manco ci credono. Manco loro ci credono. Allora diventa rivolta resistenza, che invece ha già una fattibilità più ampia, diciamo. Sì, come dicevamo, non è detto fra l'altro che debba sempre riuscire, lo vedremo anche nel corso di questa puntata, si parla di ribellioni che a volte vanno bene, a volte, anzi purtroppo spesso, non vanno altrettanto bene. In generale quello che ci interessa un po' investigare, scandagliare nel corso di queste due puntate è questo sentimento di rivalsa, in qualche maniera di rovesciamento dell'equilibrio, che come peraltro per altri temi la fantascienza sa descrivere piuttosto bene. E anche lo vedremo come la fantascienza riesce in qualche maniera, parlando di questi temi, a usarli come metafore, spesso neanche troppo velate, esatto. E di come poi può aprire delle strade, dei mondi e anche aprire degli orizzonti. Che è proprio questo, orizzonti e sognare. Comunque, se voleste scriverci, potete scriverci a postawombat@insiberia.net. Se invece voleste scriverci direttamente, per scrivere sul pad della diretta, cioè ora che vi leggiamo, direttawombat.vado.li. Se invece voleste mandarci degli audio, potete farlo a messaggeriawombat.vado.li. E annunciamo anche che la Radio Wombat è tornata a ruggire nell'etere. Abbiamo vinto un'altra volta le nostre come dire, sventure tecniche. Esatto. Abbiamo vinto un'altra volta contro le macchine. E quindi ma non, ma insomma, la gara è dura. E quindi, insomma, potete tornare ad ascoltarci finalmente sulla 1359, la frequenza in onde medie nel territorio fiorentino e dintorni. Benissimo, allora partiamo con un buon David Bowie, giusto per riscaldarci, e partiamo subito con Rivolta delle macchine contro l'uomo. Thank you. E rieccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser per chi si fosse collegato in questo momento. Sì, esatto. E allora, dicevamo, fantascienza e rivoluzione. Ci eravamo lasciate l'ultima volta con l'angelo della rivoluzione, la rivoluzione contro l'autoritarismo. Insomma, ci eravamo detti tante belle cose. Avevamo parlato di Essi vivono, di Carpenter e dei legami che aveva quel film con la rivolta a Los Angeles. Fijo. Ma avevamo anche parlato di Expanse, La luna è una severa maestra, Red Faction. Insomma, avevamo un po' introdotto all'argomento. E oggi invece prendiamo, come giustamente dicevi, prendiamo il toro per le corna e partiamo dalla rivolta delle macchine contro l'uomo. Perché vi abbiamo parlato al più di uomini e esseri umani contro alieni. A sto giro qui si parla di macchine. Allora, argomento qui davvero di per sé, anche solo lui, un argomento infinito. Comunque, quantomeno il rapporto fra macchina e uomo, ne abbiamo già parlato. Ne parleremo. E ne parleremo perché è qualcosa che comunque c'è da sempre e continuerà a insomma, perseguitarci. Nel senso, si sa che le macchine stanno sempre più aumentando. E per esempio, sempre in questo argomento abbiamo parlato, appunto, dicevi, la luna severa maestra. Anche lì è una macchina che è un po' il perno centrale della rivoluzione, vero, però sta dalla parte degli uomini. È vero. Mentre ci sono tanti esempi, e la paura atavica probabilmente umana è proprio questa, cioè l'essere dominati, sostituiti, vessati dalle macchine. E la cinematografia e la letteratura, però vediamo, no, anche la letteratura, vede appunto dei grandi esempi. L'esempio che ci è venuto in mente prima di tutti è Matrix, chiaramente. Matrix, lo sappiamo, vai. No, Matrix, vabbè, come dire, anche qui non entriamo nel filone Matrix propriamente, perché sennò dobbiamo prendere un'intera puntata. Poi si apre tutto il capitolo, ne parliamo bene o ne parliamo male, o ne parliamo mezzo e mezzo. Cioè, qui poi stiamo perché ore. Se ne può parlare male? Secondo me se ne può parlare male. Se ne può parlare male, cioè, quantomeno dal punto di vista dei costumi. Ah, dai, costumi. erano altri tempi, dai. Lo so. Il primo, per quanto mi riguarda, però, è secondo me una chicca. Gli altri, effettivamente, così, li guardi un po' per goliardia, quasi. No, ma mi ricordo, all'epoca, cioè, me le sono sparati tutti e tre, mi sono piaciuti tutti e tre. Del resto, cioè, come dire, ci stavano, era nel geist dell'epoca. Era la novità. Tempi. Sì, per sì. Quei pochissimissimi profani che non sapessero cosa è Matrix, ma non credo, secondo me non esistono. Pischelli. Boh, ma anche quello, cioè davvero è diventato un'immortalità, anche solo per il fatto quando lui schiva i proiettili, quello è diventato una roba immortale. Piega il cucchiaino, la Yuri Geller. Capito. Però in generale il plot è semplicemente questo: il protagonista, dopo un po' che vive nel suo mondo sfigato, in cui lui è un programmatore, non si sa bene, un informatico. Un nerd, comunque vive male tendenzialmente, vendendo programmi pirata, una roba del genere, perché all'inizio è quello, vengono a comprargli questi programmi. Sai che non mi ricordo minimamente. All'inizio, sì. proprio all'inizio. Comunque, il nostro protagonista ben presto scopre che c'è qualcosa che non quadra, fondamentalmente. C'ha dei déjà vu. Esatto, il déjà vu è il classico. The glitch. Infatti io, dopo Matrix, tutte le volte c'ho un déjà vu, ho il dubbio che non siamo in una realtà fisica. Il protagonista fondamentalmente capisce piano piano che in realtà la realtà dove vive è una realtà simulata. Lui avrà un ruolo fondamentale in tutta questa storia, cioè è l'eletto, ma l'eletto di cosa? Quello si scoprirà, e viene fuori ben presto che fondamentalmente le macchine a un certo punto hanno preso il sopravvento e hanno fondamentalmente schiavizzato l'umanità rendendole delle batterie viventi umane. Per cui le macchine hanno preso tutti gli uomini, più che altro, cioè tutti gli esseri umani, più che altro immagino poi via via le varie generazioni successive, cioè, quindi proprio allevandoli, coltivandoli, proprio ci sono queste immagini di campi di coltivazione di esseri umani. I vivai, sì. I famosi vivai, perché l'essere umano è una pila inesauribile quasi, basta nutrirla. Però per tenerli buoni chiaramente sono inseriti all'interno di un mega programma, e questo mega programma simula la vita di nostra, quindi proprio uguale. Potevano migliorarla? No. Però anche questo è un punto di forza di questa serie di film. Perché? Perché non hanno fatto il mondo idilliaco? Perché dicono, a un certo punto si scopre, ragionando con le macchine, che l'essere umano in realtà non vuole stare nel mondo perfetto. In realtà riesce a stare bene solo nel mondo imperfetto che lui stesso ha creato. Nel mondo di merda. Esatto, nel mondo di merda poi. Esattamente. Che bello. Questo è l'esempio appunto più famoso, almeno dal punto di vista cinematografico, di... Cioè, non è vero, il più famoso, le rivolte delle macchine, sì, no, vuol dire che tutte le macchine prendono il sopravvento, forse è l'esempio più famoso. Sì, diciamo che a sua volta prende un po' riprende il topos del pianeta delle scimmie, cioè riprende questa cosa dell'essere umano che una volta, cioè, a un certo punto si scompaginano le carte, si ribalta il tavolo e l'essere umano da predatore, da insomma, in tutta questa mentalità antropocentrica che ci contraddistingue, cioè diventa il cacciato, quello che viene allevato, che viene anche in qualche maniera reificato, che quindi il suo valore è nullo perché in fondo è soltanto una fonte energetica, una fonte di nutrimento. E quindi questa riflessione chiaramente è evidente che c'è, ne innesca altre a catena, insomma, non è un caso che non solo Matrix ne parla, ma insomma ricorre spesso. Assolutamente, e come dicevamo, poi il nucleo di questa opera non è tanto la macchina che governa l'uomo, quanto l'uomo, e secondo me quanto l'uomo è la scelta. Perché poi alla fine dei conti l'uomo, va bene, fanno la rivoluzione, portano avanti tutto, si riesce a resistere in qualche modo alle macchine grazie a non si sa bene dove arrivino questi poteri che il nostro protagonista ha. Sta roba qua non è mai veramente... Non è chiarissimo, ci sono un sacco di teorie. Un po' di derive, un po' new age. Perché alla fine lui riesce a fare roba fuori dal programma, che finché sei nel programma lo hackeri e ce la puoi fare. Fuori, come funziona... È un po' spirituale, è un po' meno, un po', esatto, così. Perché poi io credo che il nucleo poi è quello, cioè lui si riesce a vincere, si riesce a dire vai, da ora in poi l'uomo può scegliere, e la macchina dice va bene, potete scegliere, perché sa che l'uomo tendenzialmente sceglie di non essere... Fa una scelta di merda. Esatto. Ma del resto effettivamente l'essere umano è spesso messo di fronte a dei bivi e prende le decisioni sbagliate, quindi sì. Cioè, non ci stupisce, c'ha ragione la macchina, mica è scema. La macchina di base, funzioni logiche, cioè come fa a sbagliare in qualche modo. Vabbè, anche qui si aprirebbe un discorso lungo, perché la macchina la programma l'uomo, quindi bla bla bla. Sì, infatti anche quello non è chiaro, ma chi l'ha programmata queste macchine? Cioè, credo che sia la questione dell'autoprogrammazione, cioè dall'evoluzione. Sì, brava, esatto. E quindi passi tutto intorno a quello. Hanno fatto poi successivamente alla trilogia, o forse contemporanea fra il 2 e il 3, non mi ricordo, una serie di cortometraggi animati che si chiama Animatrix, appunto. Sì, non mi ricordo neanche io. Secondo me poteva essere nel mezzo, effettivamente. Mi torna. Temporalmente mi sa che era uscito, insomma, cortometraggi fatti da autori tutti giappi, mi sembra. 2003. Ti dico, Animatrix. Ecco, infatti. Produttore sono sempre le sorelle Wachowski, quindi così come Matrix. Quindi, sì. La produzione sì, appunto, però la regia e la... La regia sì. Non la regia, scusami, la produzione, perché sono tutti fatti un po' ad anime, cioè ma infatti i registi sono fondamentalmente tutti diretti da giapponesi, sì, i registi sono giapponesi, la produzione è infatti mista Stati Uniti e Giappone, quindi probabilmente si è fatta a metà, sì. I produttori, cioè chi ci mette soldi probabilmente è Hollywood, certo, ovviamente Bros. Sfruttando anche l'ondata positiva di Matrix, perché comunque Matrix io non so se l'erano pensata. Fatto sta che gli esplosa abbastanza a mano, se no non si rendevano conto del successo che poi avrebbe avuto. No, lì per lì no. E poi comunque, a parte gli scherzi, è un'icona importante, cioè un punto di passaggio importante comunque per la fantascienza moderna, secondo me. E forse non si aspettavano neanche quello. No. In Animatrix, fondamentalmente, che consiglio di guardare, anche perché quando i cortometraggi sono carini, te ne guardi uno, tanto quanto dura 20 minuti, e poi puoi anche staccare, non ti devi vedere per forza un film lunghissimo. Sono bellini perché in due, che sono il Rinascimento, il secondo Rinascimento, parte 1 e parte 2, ti racconta fondamentalmente tutto quello che i film non ti hanno raccontato, cioè il pre, cioè come si è arrivati a far sì che l'uomo sia così tanto assoggettato. È stato indolore? No, c'è stata una guerra bella dura, perché ti racconta fondamentalmente le macchine, cioè, vabbè, lo tiro un po' via, però diciamo a un certo punto questo grande cervellone che avevano costruito prende coscienza e dice: mo basta, vogliamo fare una nostra nazione. Fanno una loro nazione con i robot, tutta di robot che chiaramente si auto creano. E però chiaramente sono macchine, sono talmente bravi che cominciano a essere anche una forza economica importante che danneggia le grandi potenze, perché creano chip, no? Per esempio, tra l'altro questa cosa dei chip, monopolio dei chip, no? Che oggi è... Ricorre, è tema fondamentale. È un tema piuttosto contemporaneo, infatti loro lo mettevano in mano ai robot. A un certo punto quindi gli uomini dicono: no, basta, non dovete farcela, vi si fa la guerra. E i robot dicono: vabbè, venite, boom. E perdono gli esseri umani. Cominciano a prendere gli esseri umani, poi dicono: no, vabbè, sai cosa si fa? Visto che sono tutti a pannelli solari, perché i robot a quel punto erano tutti insomma, la maggior parte si ricaricavano col sole, perché era gratuito, oscurano tutto il mondo. È da lì che poi, quando escono dal mondo, in Matrix vedono tutto oscuro, solo temporali, solo nubi nere. Ma se sta roba non me la ricordavo. Perché l'uomo stesso, il famoso bivio che sbaglia, no? Continuamente, ha ricoperto tutto il mondo di queste nubi nere per levare il sole alle robot, che ci hanno messo però 5 minuti a convertire le proprie batterie, e quindi poi da quel momento è stata una battaglia persa finché non hanno preso il sopravvento. Sempre solo cazzate gli esseri umani. Solo cazzate, esatto. Così, c'è proprio una storia di fallimenti continui. Gli altri invece sono dei cortometraggi diversi, che parlano principalmente, ambientati all'interno di Matrix, di persone che si rendono conto in qualche modo di essere dentro un che c'è qualcosa che non va. Dallo studente che scappa su questo skate, è bellissimo tra l'altro dal punto di vista dell'animazione, dove lui scappa come si chiama, l'agente Smith, gli equivalenti. La CIA, fondamentalmente. La CIA, esatto, la CIA dei... I Men in Black. Esatto. Ha, per esempio, questo atleta che riesce a capire qual è il trucco è come mettere i trucchi in un videogioco, riesce a capire come superare i limiti dell'uomo, perché siamo in un interno di un programma e quindi basta riuscire a capire come si fa per poter massimizzare tutto quello che si vuole, perché alla fine si può fare tutto quello che si vuole all'interno di un programma, se si è capaci di in qualche modo entrarci a contatto. E quindi c'è questo atleta che trova il modo di farlo, però chiaramente ci sono, insomma, tutte delle conseguenze di un certo tipo. E per esempio lì non è mai una roba banale, perché per esempio nell'esempio di questo atleta poi è sempre la scelta al punto, cioè l'atleta deve scegliere se superare i propri limiti, però rischiare e quindi scoprire la realtà dei fatti, ma rischiare poi di perdere tutto, oppure no. Che scelta farà? Vabbè, guardatevelo, tanto dura poco, però veramente fico. Ma tra l'altro, la cosa, il pregio secondo me di Animatrix è che, a differenza di Matrix, che comunque aveva uno stile piuttosto definito e insomma da cui difficilmente si poteva evadere, Animatrix si può prendere la libertà di anche così spaziare tra diversi stili e linguaggi, al di là dell'anime, insomma del cartone animato, ma in generale sono i vari corti, sono tutti uno diverso dall'altro anche a livello estetico e sì, di vero, stile. Vero. Che è molto interessante. Tra l'altro era l'epoca in cui questi esperimenti si facevano spesso. Mi è venuto in mente, ripensando a Animatrix, anche a Waking Life, che era un altro anime bellissimo dell'epoca, un lungometraggio animato dell'epoca, sempre del 2001, quindi siamo proprio lì. E tema diverso, ma lo stile era molto simile, e era quel momento in cui si giocava con la computer graphic e si anche sperimentava, e quindi Animatrix è interessante anche per quello, secondo me. Sì, sì, c'è comunque, insomma, l'inizio degli anni 2000 è un po' una rivoluzione nell'animazione, perché si passa dall'animazione degli anni 90, che era anche per lo più americana, tra l'altro, ha invece una, insomma, un'animazione ben più fluida e interessante. Quindi fico, molto fico, guardatelo. Questo poi... è Animatrix, ti viene in mente qualcos'altro su, no, Matrix? No, direi che... No, ci siamo entrati, sì sì sì. C'è un'altra serie, leghiamoci sempre al cinema, che ho scritto qui sotto, Love, Death, Robots. Vista non tutta, devo ammettere. Davvero? Vista un po' solo. Però sì, è vero, lo ricorda molto, anche se chiaramente in chiave più contemporanea. Sì. È di qualche anno fa, sì, giusto? Non... Due serie hanno fatto. Sempre cortometraggi. Non tutti sui robot che... Cioè, sì, sempre i robot, ma non sempre, eh? Però ce n'è una molto carina, che è quella lì dove ci sono questi quattro robot che visitano questo mondo umano come se fosse un museo. Cioè, loro sono i dominatori, nel senso gli abitanti del mondo, diciamo. E forse vanno... quella l'ho vista. Sì, è una delle prime, tra l'altro, se non sbaglio, nella prima stagione. E lì è, appunto, è interessante perché, no, c'è il ribaltamento, si comportano come esseri umani, proprio con le emozioni, con lo schifo, con il dire guarda come erano arretrati, no? E insomma vanno a vedere questa antica città come se fosse un museo e rimangono sbalorditi dall'arretratezza, da tutte queste cose qua. Legato a questa cosa qua, appunto, ho scritto Yojimbo, che invece è un fumetto. Ecco, questo ci sta, che non lo conosci, zero, perché non è famosissimo ancora. È al secondo volume della Nui Nui, quella col gattino nero. La casa editrice col gattino nero. Bella. Che è una bella casa editrice, fa diverse cose interessanti. In questo Yojimbo siamo un po' come Love, Death, Robots. Cioè, c'erano questi parchi giochi dove avevano ricostruito l'antico Giappone, e quindi dove è pieno di robot che impersonano samurai, mercanti, geish, tutto questo qua. A un certo punto va tutto in malora, ma va in malora proprio l'umanità. Ancora non si è capito bene per che come. Che è successo? Ci sono questi robot che iniziano con questi robot che rincorrono e stanno cacciando qualcosa. Cosa stanno cacciando? Si scopre dopo poco. Un ragazzino che non si sa perché sia lì. E è un ragazzino umano. E ben presto si scopre che praticamente, essendo l'unico umano che c'è presente lì, o almeno nel primo volume c'è solo lui, è l'unico ad avere le autorizzazioni per controllare alcuni robot. Perché avevano impiantate nella loro programmazione, chiaramente erano quelli dentro il parco divertimenti, avevano la programmazione di far divertire gli esseri umani, comunque di servirli. E quindi, insomma, fatto sta che nel mentre che l'umanità è finita, in qualche modo si è creata una società, non si sa bene, delimitata, e quelli dentro, tutti i robot che hanno sempre la programmazione all'interno di questo parco giochi, è stato lasciato andare a sé, alcuni sono morti, cioè morti, non può morire, non hanno più carica, alcuni invece sono vivi, e alcuni di questi si mettono a difendere questo bambino, spinti probabilmente dalla loro programmazione, ma in realtà forse era qualcosa di più, perché probabilmente nel mentre si è formato dentro di loro qualcosa che non si può dire che sia un sentimento, ma magari qualcosa di simile, diverso ma simile. E quindi è tutta questa storia di questo bambino che scappa, insomma, per ora da questi robot o mezzi robot, forse, che lo stanno, quindi cyborg forse, che lo stanno inseguendo, e è protetto da questi, principalmente da uno, ma piano piano aumenta la compagnia di questi robot samurai, quindi molto bellino. E la storia è tutta un po' il rapporto che lui crea con questi robot, al di là del fatto che lui abbia queste autorizzazioni o meno, è il rapporto che si crea fra loro. Bello. Due. Carino, molto carino. Secondo volume è uscito quest'anno, poi non so quando uscirà il prossimo, forse l'anno prossimo, ne esce uno l'anno tipo. Ma sì, tra l'altro era, appunto, come dicevi giustamente, il rapporto uomo-macchina è qualcosa di cui potremo parlare per l'eternità, quindi non lo faremo oggi, però mi viene in mente che sicuramente... ricorre un po' il tema del risveglio, della presa di coscienza, che è un po' il filo conduttore di molta fantascienza che parla di rivoluzione, tant'è che vi avevamo raccontato in Essi Vivono di Carpenter nella scorsa puntata, di come in fondo c'era un po' questa visione un po' ingenua, se vogliamo, ma in fondo se gli esseri umani o gli esseri non umani vedono, prendono coscienza, questo anche in Matrix peraltro, insomma in tantissima fantascienza, gli basta il vedere e a un certo punto la rivelazione basta a far scattare qualcosa, sì. Per cui poi basta, hai fatto, da lì in poi è il via di Berlinguer, e in Berlinguer ti voglio bene. E in realtà non, cioè, come quell'altro via, cioè, abbiamo ben visto che non è così. Ma fatto sta che spesso viene dipinto così. E nelle macchine uguale, cioè, a un certo punto c'è sempre questa sorta di click, di qualcosa che avviene nelle macchine, per cui a un certo punto si accende qualcosa e loro prendono coscienza, evolvono e fanno cose che generalmente sono cose che scompaginano l'equilibrio. Chissà, evidentemente era un modo di vedere le cose che è sopravvissuto nei decenni. Perché poi... Sicuramente, esatto, sono d'accordo. E secondo me emerge spesso da come viene rappresentata la rivolta delle macchine che poi prendono il sopravvento. L'uomo, il problema dell'uomo, che nonostante ci sia un qualcosa che li sta opprimendo, comunque non riescano a unirsi. No, tendenzialmente in queste narrazioni, soprattutto contro la macchina, perché l'alieno è già qualcosa di diverso, la macchina non lo so, dovrei rifletterci un po' perché, però tendenzialmente in queste narrazioni l'uomo comunque alla fine c'è qualche traditore, c'è qualche... È vero. Chissà. È vero. Beh, anche perché con la macchina c'è un rapporto sempre molto intimo, molto ambiguo, quindi non è detto. Forse è quello, perché comunque con la macchina puoi avere un rapporto ambiguo, ma averlo con l'alieno è più difficile, forse, perché te lo immagini talmente diverso da te. È più mal visto, quantomeno. Esatto, poi sì. Chiaramente ci sono gli esempi con gli alieni invece di buoni rapporti, chiaramente quello è tutto un altro filone. Mi veniva in mente una via di mezzo fra rivolta contro le macchine e rivolta un po', insomma, invasione aliena, lo dico così un po' per ridere, ma Transformer. Certo. Transformer è quello, poi alla fine sono alieni che sotto forma di macchine che vengono ad invadere, e ce ne sono quelli buoni che ci difendono dall'invasione di quelli cattivi. Vero. Questo è. È vero. Una via di mezzo, quindi macchine e alieni, tutte e due insieme. Però veramente venite tutti, allora. Ci manca solo gli animali, ma di quelli abbiamo già parlato. Quindi, proseguendo nella nostra maratona delle rivoluzioni fantascientifiche, in qualche maniera, arriviamo a quella che abbiamo nominato un pochino, intitolato come una rivolta contro i costrutti sociali, nel senso che non sono delle rivolte, come dire, proprio contro il capo, il re, il dittatore di turno, ma è più qualcosa che parte dal basso e che piano piano sale. In particolare, tu giustamente mettevi Samurai 7. Io ho messo Samurai 7 perché lo adoro, perché è una roba che mi ha appassionato, mi appassiona di base i sette samurai. Cioè, lo studio di animazione giapponese Gonzo nel 2004 volle celebrare i 50 anni dei sette samurai, il celeberrimo film di Kurosawa, con la produzione, la creazione dell'anime Samurai 7, appunto basato su esso. I sette samurai, famosissimo film appunto di Kurosawa, che è uno dei, come si dice, non plot, è uno dei... sì, è uno standard, è diventato quasi cioè, uno standard. Sì, effettivamente, tra l'altro, sì, del 54, quindi un film, anzi, insomma, piuttosto vecchio ormai, che però evidentemente aveva conteneva una serie di... ma mi viene da dire cliché, ma non è in senso buono, nel senso erano dei miti, dei simboli e delle situazioni tipiche che poi evidentemente erano talmente archetipiche, talmente simboliche, che poi sono state riprese veramente a man bassa un po' dappertutto, in tutti gli ambiti. Ma sì, Sette Samurai veramente è qualcosa che molto spesso non ci accorgiamo neanche la citazione è quella, ma in realtà se poi guardiamo bene è proprio una ripresa. Film del 54, come dicevi, di Kurosawa, probabilmente il suo film più famoso, anche se insomma sì, se la batte con altri. A livello internazionale sì. ambientato nell'era Sangoku, dove c'era sostanzialmente la storia classica, sono questo villaggio di contadini stufi di essere vessati continuamente da continui saccheggi da parte di questo gruppo di briganti che li assaltano continuamente e li saccheggiano, e decidono di rivolgersi un po' per caso e un po' per scelta, diciamo, a questi sette ex samurai, perché sono sette ronin, che quindi sono samurai senza padrone in qualche maniera, che quindi insomma il Giappone è qualcosa di particolare, è qualcosa di già rivoluzionario in sé, l'idea di un guerriero senza padrone è qualcosa che a noi ci richiama qualcosa, ma in Giappone è molto, come dire, richiama un immaginario molto più definito e anche più ribelle in qualche maniera. E Ronin, questi sette Ronin si mettono al servizio di questo villaggio di poracci sostanzialmente, di contadini, e li aiutano in questa scalata, questa rivalsa che va avanti. E questo in realtà, che ora detta così sembra abbastanza una storia cioè anche forse poco interessante, in realtà contiene in sé tutta una serie di simboli, come dicevamo, che evidentemente poi parlavano di classi, parlavano di caste, di difficoltà dell'uscire dalla propria casella, dal proprio stigma sociale, cosa che nel 54 in Giappone non era proprio banale. No, per niente. Perché poi la cosa interessante, no? Se uno sente la storia così, dice, va bene, sono i contadini che si ribellano alle autorità. No, non è questo il topos dei sette samurai. Quello, il vero ribelle, il vero eroe, è l'unico di questi Ronin, che in realtà Ronin non è, ma era un contadino, che il contadino non poteva assolutamente diventare un samurai. Si nasce samurai, non si può diventare. Erano caste ferme, tranne pochi esempi nella storia del Giappone. Ci sono stati, non ci sbagliamo, Todoyori Hideyoshi, vero? Non Totokuwa, ma Hideyoshi, se non sbaglio, sì, lui, insomma, da stalliere diventerà shogun del Giappone. Storia vera, cioè questa è una storia reale. Quindi però sono storie, è come la scalata in America, sono favole, cioè c'è un'eccezione ogni miliardi e va bene, quindi non è la realtà dei fatti, è un'eccezione ogni miliardi. Quindi questo contadino che sceglie di combattere veramente, fisicamente, con la spada, fingendosi un samurai, fingendosi proprio che ruba a un samurai morto questo rotolo dove c'è il lignaggio, perché tu dovevi avere una patente di lignaggio per dimostrare che eri un samurai, anche se non avevi un padrone, però comunque dovevi averla. Quindi lui la ruba, infatti poi c'è la scena e quando poi la srotola e la fa vedere, gli dico, sì, ma dai, qui c'è scritto c'hai 3 anni, come, mi sa che non è tuo. Lui è il vero eroe. Lui è il vero eroe di questa storia, perché davvero si ribella ai costrutti sociali totalmente, sia quelli dall'alto, cioè da una parte i briganti che non tanto saccheggiano, ma fanno quella cosa di noi vi proteggiamo, però ci dovete dare tutto il grano. Ecco. Così non vi saccheggiamo, ma in definitiva ti saccheggia. Stessa cosa che avrebbe fatto il governo, cioè ti proteggiamo ma mi paghi, e mi stai saccheggiando lo stesso. Sono mafiosi, anche perché spesso i Ronin, insomma, questo facevano, cioè non è che... I Ronin erano poveracci a quel punto, perché non avevano più il titolo di samurai, e quindi non avevano più, perché il samurai di base aveva un territorio che gli dava in koku, cioè riso fondamentalmente, che era un po' la moneta. E se non sei più un samurai, non hai questa entrata, quindi sei un povero, stai per strada, vai a trovare qualche lavoro qua e là, ma non sei accettato socialmente. L'altra figura che invece è comunque rimane all'interno della società e non sta facendo una rivoluzione è il contadino, perché il contadino in realtà poi dopo cosa fa? Piange miseria in tutto e per tutto, nasconde le cose, cerca il sotterfugio, ma non fa una rivoluzione. Cerca il sotterfugio, ma non fa una rivoluzione. Non lotta contro lo Stato o chi ti sta opprimendo. L'unico che davvero lo fa è questo contadino samurai. Poi, contornato dagli altri sei, che si rivelano essere dei samurai illuminati in qualche modo. Però è lì la rivoluzione sociale. È del contadino che prende le armi e dice: boh, basta. Capito? E sovverte in qualche maniera anche il suo destino. possiamo dire. Sovverte il suo destino, esatto, o cerca di farlo, poi chiaramente dovreste vederlo. Ora, la serie, il film senza tagli dura 4 ore e mezzo, tipo. Quindi potete vedere la versione dei tagli, ma comunque sono 3 ore e mezzo. Ma sì, ma infatti a quel punto guardatela tutta, che vi frega. Sono d'accordo. Cioè, tanto sei lì. Però è Kurosawa degli anni 50, quindi ha un ritmo di un certo tipo. Lento. Ti deve piacere. È bianco e nero, c'è tutta una serie di cose. Samurai 7 invece potete guardarvelo, è un'ambientazione fantascientifica e ci racconta proprio questa storia qua. Molto bellino, caratterizzato molto bene e si vedono tutte queste cose che vi ho raccontato, si vedono comunque anche in questa trasposizione. D'altronde era il 50esimo e insomma ci voleva che fosse un minimo. Sì. Tra l'altro invece, oltre a questo Samurai 7 che ci citavi, come dicevamo, i 7 Samurai sono stati ripresi da chiunque, dalla qualunque, cioè veramente penso sia una delle opere più citate in assoluto, da cui si prende spunto più in assoluto, e il primo che viene in mente è I Magnifici 7, quindi la ritrasposizione in chiave americana peraltro e un po' hollywoodiana e edulcorata di in chiave western, dove però non vi immaginate il western alla Sergio Leone, insomma, che ci sarebbe potuto stare col paragone con Kurosawa. No, lì chiaramente è un'altra storia, è il western più classico, però è un omaggio anche quello, palesemente una riambientazione in epoca western. A sua volta i Magnifici 7 vengono ritrasposti in un remake fantascientifico, questo proprio fantascienza, quella spaziale, viaggi nello spazio, che si chiama Magnifici 7 nello spazio, un film del 80, sì, proprio dell'80, 1980, sì. Battle Beyond the Stars, il titolo originale, americanissimo, di, guardavamo la regia di questo tale Murakami, che penso non abbia niente a che vedere, penso non sia manco parente, e la trama è abbastanza insulsa, comunque diciamo che fa questo triplo salto mortale, perché prende l'idea originaria molto molto molto molto alla lontana dei 7 Samurai, ma nella ritrasposizione dei Magnifici 7 ributta la questione fondamentalmente western, viaggi spaziali, cowboy spaziali, e boom, appunto nello spazio, e quindi diventa un po', fa questo triplo mascheramento. Ma leggevo questo commento, che ora rileggerò, che era molto divertente. Il Gobbo dice, in questo sito che sto leggendo, davinotti.com, non so cosa sia, dice: risposta di Corman a Guerre Stellari, di cui non si sentiva l'urgentissimo bisogno. No, direi. Perché risposta a Guerre Stellari? No, questo non te lo so dire. Ah, ok, è una sua interpretazione. Cioè, è vero anche che siamo nell'80 e che di film del genere non ce n'erano tantissimi ancora. Perché era proprio, cioè, era tutto ambientato in navi e navicelle uno contro l'altro. E io l'ho visto, tra l'altro, vi confesso, quando ero piccola, ovviamente non mi ricordo assolutamente niente. Però mi ricordo che mi era piaciuto un sacco, cioè lo guardavo con grande fascinazione. Ma penso che sono quelle cose che guardi da piccolo senza capire cosa stai vedendo, perché probabilmente adesso avrei grossa difficoltà a guardarlo. Tra l'altro, la butto lì, ma c'è questo trasportatore spaziale fissato con i film western, che è un bello, po' insomma, è uno dei protagonisti più importanti, che si chiama Space Cowboy. Quindi da lì poi varie altre citazioni future, secondo me, ci sono state. Non lo so, però secondo me... No, stavo guardando un'altra cosa, perché mi hai fatto venire in mente di questa cosa delle trasposizioni di Topos e bla bla bla. Guerre Stellari, comunque anch'esso in qualche modo ha un po', forse per la potenza americana più che per in sé la storia, però ha portato dei Topos anche lui, e ne abbiamo parlato la volta scorsa di rivoluzione contro autoritarismi. C'è la versione indiana, non so se avevi mai visto. No. La versione indiana di Guerre Stellari, che è un mito. Davvero? Proprio uguale, uguale, uguale. In realtà, ora stavo leggendo, scopro solo ora, non era, in realtà nasce come molto simile a Guerre Stellari, proprio, cioè, con gli stessi personaggi, però in versione medievale, e che poi a un certo punto venne presentato su Reddit da un utente chiamato Sharkitman, che ha scritto: I edited Bollywood film set in medieval India in the style of Star Wars. Cioè lui che l'ha reso Star Wars. Però è una cosa incredibile, andate a vedervi il trailer perché è divertentissimo. No, però lo voglio vedere. Assolutamente. Ma comunque anche nei Magnifici 7 nello spazio effettivamente a ben vedere ci sono delle robe che palesemente sono tratte da Guerre Stellari, perché c'è appunto, come dicevamo, il cowboy dello spazio che è un po' questo personaggio un po' maledetto, un po' burbero così, e poi ci sono c'è questa ribellione di fondo contro il tiranno, che è questo tiranno che ovviamente per motivi diversi e a caratteristiche diverse rispetto a Guerre Stellari, però insomma, più o meno c'è questa cosa del questo topos della appunto tirannide da in qualche modo da sconfiggere attraverso una ribellione che parte dal basso e parte da personaggi improbabili e reietti, insomma ci sono delle cose simili. Il punto è che tutta questa roba più, compresa Guerre Stellari, hanno preso da Kurosawa alla fin fine topos. Sì, compreso Sergio Leone, qui chiudiamo un po' questa cosa qua. Non so se l'ho già raccontata, se l'avete già sentita come storia, sicuramente è famosissima, ma per un pugno di dollari è un film palesemente, spudoratamente copiato, bellissimo, bellissimo, ma spudoratamente copiato dalla sfida del samurai di Kurosawa. Cioè proprio scena per scena, una le metti accanto, una nell'antico Giappone, una nel West, ma sono identiche. Infatti Kurosawa gli ha fatto anche Hauser, pure vinto. Tutti gli introiti dell'Asia se l'è presi Kurosawa. Però ci sta. Quell'amabile vecchietto, che gli devi dire? No, poi più che altro oggettivamente l'hai fatto veramente identico. Cioè dovevi cambiare un minimo, così uguale è troppo. Ambiente l'atto, ma non lo so, mettilo a Tor Vergata, fai un attimo qualcosa più. Cambia un po' la storia, non può essere veramente scena per scena identico, perché è davvero identico scena. L'ho guardato insieme uno dopo l'altro per quando scoperto sta cosa. Si fissavo pure te. Sì, io sono fissato. No, ho avuto una fase Kurosawa in cui ho guardato tutto Kurosawa. Tra l'altro quando ero piccino, quindi li compravo in edicola i film. No. Bellissima cosa che ormai si fa molto poco. No. Ma all'epoca compravo i DVD in edicola, c'era le uscite. Cioè, te da piccolo andavi a prendere Kurosawa. Sì, da... sono matto. Siamo così su Radio Wombat, non l'abbiamo mai nascosto. Ecco. No, esatto. Siamo persone particolari. E d'altronde, secondo me, anche chi ci ascolta condivide con noi questa così particolarità. Quindi dicevamo, i sette samurai e tutto quel mondo lì che gli sta intorno, che era in qualche modo quello che ci ha dato lo spunto per parlare di ribellioni contro un costrutto sociale. Sì, dai. Sì. Fermiamoci un attimo. Funnel of Love, Wanda Jackson. Wombat. Deep into the funnel of love. Rieccoci qua, fantascienza e rivoluzioni, stiamo parlando con Alle Porte di Tannhäuser, Radio Wombat. Che bella Wanda Jackson, mi piace sempre molto. Sì. E quindi dicevamo, no, perché in realtà qui anche qua si apre abbastanza un tombino, ne potremmo parlare per ore. Tu citavi giustamente Hunger Games, che io confesso, te lo dicevo fuori dai microfoni, lo dico candidamente anche davanti ai microfoni, non l'ho visto. Non, vabbè, ci sta. Cioè, ho capito più o meno di cosa si parla, ma non... ignoranza. Allora, dal punto di vista letterario, comunque, è una saga piuttosto godibile, soprattutto i primi libri sono bellini. Diciamo che è un po' a livello dei libri di Harry Potter, però diverse spanne sotto. Cioè, comunque Harry Potter è scritto piuttosto bene. Questo un pochino meno, ma comunque è godibile. La versione cinematografica lascia un po' a desiderare, perché è una versione hollywoodiana e quindi ha tutte le pecche che può apportare Hollywood. Però il topos centrale, cioè appunto una situazione sociale dove ci sono dominatori e dominati, cioè qual è il plot? Siamo in questo mondo non ben identificato, non c'è un grosso pre, non c'è una descrizione del mondo, del globo terraqueo dove è ambientato tutto, ma di questa zona dove praticamente che è divisa, questo regno che è diviso a distretti. Questi distretti si scoprirà poi piano piano sempre meglio cosa è successo, fondamentalmente se le davano, e per trovare una pacificazione, diciamo, fra di loro inventano questi Hunger Games, questo gioco dove dei rappresentanti dei vari dei distretti scelti a caso, se non sbaglio, o forse ci sono anche i volontari, non mi ricordo più, vabbè, comunque, si scontrano all'interno di questi giochi che diventano una sorta di giochi romani. Una sorta di... come si chiamano? Anche i duelli medievali, cioè in effetti forse una di quelle cose... Cioè i duelli, sì, come sì, si chiamavano? I giochi... Brava, non mi viene nessuno dei due nomi... Vabbè. Esatto, quelli lì, cioè di tornei, ecco, tornei... tornei. Esatto, quindi dove tutti guardano e sfogano anche un po' le proprie frustrazioni guardando e vedendo la violenza, perché poi sono molto violenti. Sono spettacolarizzate questi incontri talmente tanto che c'è un regista, c'è la figura del regista che sceglie cosa far arrivare, mostri, fuoco, far comprare le armi, gli armamenti. Ci sono anche da fuori, anche molto moderno questo, da fuori ci sono i follower in qualche modo che possono influenzare dando, che ne so, appunto la protagonista nel film a un certo punto gli arriva un medikit quando gli serve, perché c'è chi gli vuol bene e glielo manda in qualche modo. Ah, l'aiuto da casa. L'aiuto da casa. Quindi c'è questa spettacolarizzazione, spettacolo talmente grande, talmente, che poi in realtà nasconde sotto il tappeto questo problema sociale enorme, dove c'è questa Central City, questo distretto, insomma, diciamo, che governa col pugno duro tutti gli altri, e gli altri dal medio povero al poverissimo, gli altri distretti, e li tengono soggiogati con questa cosa, e se vi ribellate poi si torna allo stato di guerra, non lo facciamo, abbiamo trovato il modo, dai, state tranquilli. E però la gente sta male, e la protagonista appunto viene mandata a suo malgrado, anzi no, viene mandata la sorella, e lei dice no, vado io al posto della mia sorella, e allora va ciao. Lei al posto della sorella, e lei sarà un po' questa chiave, volente o nolente, anzi lei non si rende conto all'inizio, non vuole, ma sarà la chiave per una rivolta proprio contro questo costrutto sociale che è stato creato. Quindi ci sta bene all'interno della nostra rubrica. Poi certo, di per sé è un po' mainstream. Vabbè, però d'altra parte l'abbiamo detto già l'altra volta, che comunque sia tutte queste rivolte spesso, cioè a volte magari ti rendi conto che chi l'ha disegnata in qualche maniera, o scritte, o l'ha fatto con un intento proprio anche evidentemente politico. In altri casi sono un po' più delle scuse un po'... anche edulcorate, sì, cioè vabbè, per in realtà provare anche a raccontare uno dei fenomeni umani che esistono da sempre, e però insomma ingabbiarlo anche, cioè questo fa parte del gioco. Senza dubbio. Arriviamo a... non potevamo non metterlo, V per Vendetta. No, cioè che... ci andava. Per me nel Pantheon proprio. Sì, soprattutto il fumetto, cioè l'originale, sì, sì. Perché... anche qua Alan Moore ha rilasciato in un'intervista, tra l'altro, che vi consiglio, in Miti e Molotov, uscita per Contrabbandiera un paio d'anni fa, o tre forse, una serie di interviste a scrittori e scrittrici di fantascienza del fantastico anarchici, anarchiche, interviste che aveva raccolto Margaret Killjoy qualche anno fa. In una di queste Alan Moore racconta del suo rapporto disastroso con le interpretazioni delle sue opere in cinema, al cinema, e cita proprio come esempio V per Vendetta, per dire, ecco, per esempio V per Vendetta per me è stato un massacro, è orribile, lo aborro, tant'è che infatti Alan Moore non ha praticamente mai più firmato niente, cioè è estremamente difficile. Al contrario, per esempio, di Neil Gaiman, che molto spesso evidentemente è riuscito con capacità sua, poi l'amore deve essere un personaggino. Certo. Fatto sta che Neil Gaiman riesce a firmare molte delle sue opere, anche per esempio serie ultime che sono state prodotti anche da Netflix, insomma da colossi dell'industria, sono prodotti e proprio da Neil Gaiman, e ci ha messo proprio le mani nella sceneggiatura, in tutta la produzione, e quindi quello che ne viene fuori effettivamente è un prodotto, lo chiamo a prodotto non a caso, ma insomma è un prodotto guardabile, dignitoso, che più o meno rispecchia l'originale. Ecco, nel caso di Alan Moore si lamenta moltissimo che non è mai riuscito a avere soddisfazione di quello che ne è uscito dai rifacimenti delle sue opere. Tant'è che V per Vendetta, anche questa volta delle sorelle Wachowski, Lana e Lily Wachowski, che hanno probabilmente anche, secondo me, come dire, in buona fede voluto portare sui grandi schermi, dal grande pubblico, chiamiamolo così, un'opera meravigliosa come quella di V per Vendetta. Ecco, però hanno fatto un abbastanza troiaio, secondo me, perché effettivamente hanno, questo Alan Moore lo lamenta molto molto chiaramente, e secondo me c'ha perfettamente ragione, hanno tolto tutti i riferimenti al fascismo. Cioè Alan Moore è molto, in V per Vendetta è estremamente preciso, estremamente politico, e la storia è, si parla intanto l'edizione di V per Vendetta, la prima edizione all'inizio degli anni 80, quindi 82-85, siamo nel momento in cui Alan Moore era intriso della cultura anche punk dell'epoca, era ed è un anarchico che faceva parte di un mondo, insomma, inglese, e tra cui, insomma, era il momento della Thatcher, cioè si sente ed è molto esplicito, insomma, nel rivelarlo e nel farlo vedere. Ecco, V per Vendetta è un fumetto che parla, è strano, è molto ambiguo per certi aspetti, è molto simbolico, non è estremamente chiaro, però parla di questo personaggio che poi è fondamentalmente un personaggio ripreso dalla figura di Guy Fawkes, che fu questo cattolico inglese, sì, che nel 1600 si rese protagonista insieme ad altri di questo tentativo di congiura, la famosa congiura delle polveri, e lui fondamentalmente aveva provato a far saltare in aria il Parlamento inglese, non ci è riuscito, un po' al bombarolo di D'André, cioè l'hanno beccato proprio sul fatto mentre stava per farlo, finita male soprattutto per lui, ma questo episodio ebbe grosso clamore e rimase nella cultura popolare inglese e europea per diverso tempo, per diversi secoli, nel bene e nel male, nel senso che poi la figura di Guy Fawkes fu spesso vista come lo spauracchio del veri cattolici che provano a fregarci ma non ci riescono perché fanno schifo. Quindi in realtà era spesso vista in chiave, insomma, siccome avevano perso di base, il potere ne ha approfittato per farne un esempio di tanto inutile, ci provate a ribellarvi, tanto finite male. Ma dall'altro lato è rimasta anche sotterranea come un esempio di ma noi ci proviamo lo stesso e prima o poi ce la faremo a farvi sì, saltanare. Sì, Scevra l'ha fatto che fosse un cattolico, perché cioè, per ragioni, la storia. Invece la parte romantica del rivolgere, far saltare in aria, cazzo, dai, Parlamento, cioè, via. Lo capisco, è affascinante. cioè era proprio il bombarolo. Cioè, tant'è che appunto in realtà Alamur ne fa un personaggio molto più romantico di come era, sì. Sicuramente lo fa di fatto diventare un anarchico, un individualista, sì, sì, anarchico che va a far saltare il Parlamento. Ma in realtà ovviamente, cioè, siamo nel 1600, siamo in una congiura di cattolici contro protestanti, cioè siamo proprio in un altro mondo. Anglicani. Sì, tra l'altro, ma signore. Però in realtà Alamur, insomma, è evidente, i riferimenti che fa sono altri. E tutta questa storia, in realtà, l'amour la colloca in un momento, in un futuro distopico a Londra, dove sì, c'è Guy Fawkes che ha questo riferimento, ma il governo è un governo fascista, totalitario, un po' alla Orwell, al 1984, e questo protagonista, V, via all'inglese come si vuole, è questo personaggio un po' enigmatico che ha questa maschera di Guy Fawkes, perché appunto la maschera di Guy Fawkes poi dopo, in realtà non solo grazie alla Murra, perché in realtà viene, come vi dicevo, da molto prima il mito un po' di Guy Fawkes, però poi è, insomma, diciamo, al grande pubblico, ribadito tra molte virgolette, è arrivato grazie alla Murra e anche al film che poi è stato fatto dalle sorelle Wachowski, che è un buon film però, eh. No, dai, sì, alla fine... senti, a me effettivamente non è dispiaciuto così, cioè capisco che Alamur proprio lo metta al bando. Esatto, certo. Però anche a me, quando l'ho visto, non è dispiaciuto. A me le cose che fanno le sorelle Wachowski, devo dire, sì, cioè, piacciono quasi sempre. Però, cazzo, se ti guardi il fumetto è proprio un'altra storia, effettivamente. Cioè, il fumetto aveva una profondità e un'accusa politica veramente che loro hanno edulcorato. Cioè, certo, c'è, ma è edulcorata. Totale. Cioè, si sente un po' questo governo fascista. Quel fascismo alla Thatcher, appunto, si sente un pochino. No, forse un pochino di più della Thatcher, non lo so. Comunque, insomma, le retate, sì, contro. Però è un po' un ribellismo generale, cioè un, sì, po' un, cioè, non lo so, molto meno violento, molto meno preciso. Ecco, nel film non si danno mai dei nomi, dei cioè non si parla mai dell'oppressione, dei motivi per cui uno dovrebbe poi effettivamente, cioè è tutto un po' buttato lì effettivamente. Però cioè, stiamo parlando comunque di Hollywood, di un film che doveva andare sui grandi schermi. È chiaro che quelli sono i compromessi che immagino siano necessari. Non è un caso se non faccio film, insomma, non li faccio tanto meno per Hollywood. Tu sa che, insomma, questo è il gioco, le regole del gioco. Da V per Vendetta, in realtà, anche lì il fumetto ha influenzato moltissimo. E a sua volta è pieno di citazioni, cioè questo è tipico di Alan Moore, è pieno di citazioni in tutto. La lettera V, che poi corrisponde al numero 5, è più densa di significati. A sua volta è un, tra le varie cose, fa l'occhiolino a Thomas Pynchon, al suo romanzo V, che fra l'altro, se non avete letto, leggetelo perché è meraviglioso. E si parla della quinta sinfonia di Beethoven. Il 5 novembre è il giorno della congiura delle polveri. Insomma, questo 5 continua spessissimo. E insomma, è chiaro che Alan Moore poi gioca con. Mi viene in mente una cosa, scusa. Non so se è una mia follia, mi è venuta in mente ora. Però la V è anche molto simile, no? È alla vittoria, no? Certo. Sì, sì, quella inglese. Al vaffanculo. Esatto, è doppia. Beh, cioè vittoria e vaffanculo. Perché poi non so se sapete la storia, sai la storia perché gli inglesi invece come noi il dito medio fanno il suo video. Ricordamela. Perché praticamente cosa gli inglesi nel Medioevo, nella guerra dei cent'anni, insomma, e tutte quelle che hanno fatto Francia e Inghilterra fra di loro, guerra 30 anni, guerra 100 anni, gli inglesi a un certo punto spadroneggiano grazie ai loro arcieri, all'invenzione del longbow, dell'arco lungo, che da lontano tirano ste frecce e frizzano la cavalleria francese, che invece era il fiore all'occhiello del militarismo europeo. Quindi cosa facevano i francesi quando beccavano gli arcieri? Gli tagliavano le due dita che servono per tendere l'arco. Per cui gli inglesi da quel momento in poi, quando vedevano i francesi e dovevano insultarli, gli facevano il gesto con le dita per dire: vedi che non me l'hai tagliato, ora ti tiro una freccia a mezzo denti? Guarda, guarda. E da lì questo strumento neanche relativamente di recente. Mi veniva in mente ora e potrebbe essere legato anche a questo. Eh certo, ma ribadisco, Alan Moore era figlio del suo tempo, era figlio di un momento in cui nell'82-85 c'erano, cioè, insomma, era l'esplosione del punk, c'erano i Cress, c'era, insomma, era proprio il momento in cui, certo, tutta questa simbologia era molto chiara e molto usata anche. Alan Moore è figlio delle sottoculture anche dell'epoca, quindi sì, sicuramente. E, tra l'altro, appunto, poi è andato avanti e V per Vendetta è stato, come dicevamo, ripreso, forse manco capito troppo, diciamo che se ne è presa un po' questa vena ribellistica, questa generica fascinazione verso un ci ribelliamo. C'è una riflessione poi. Generica, tant'è che poi la maschera famosa di Guy Fawkes, che fra l'altro nel mondo britannico e anglosassone è una roba precisa, cioè nel senso richiama qualcosa che non c'entra manco troppo con V per Vendetta, perché insomma anche gli irlandesi per esempio ne hanno fatto una bandiera per un po'. E, non lo sapevo. Almeno alcuni, insomma, perché sì, e beh, di fatto era un cattolico che fa saltare in aria il Parlamento inglese. Quindi, il insomma, sogno di un irlandese. Ci sta, ecco, della simpatia era evidente. E però sì, insomma, poi dopo da Anonymous, da mille altri gruppi che a caso hanno iniziato a prendere sta maschera di Guy Fawkes, mettersela in faccia, è evidente che insomma era più una fascinazione generale, generica. Però devo dire che io sono molto laica in questo. Cioè, secondo me i cambiamenti sociali passano anche dal pop. Cioè, passano anche da le cose non capite, capite a metà, arrivate un po' in maniera edulcorata. Diciamo che se è tutto lì e si ferma tutto lì, chiaramente hai sedato qualcosa. Altrimenti può essere un primo step. Quindi io non sono neanche troppo negativa, tant'è che insomma me li guardo tutte ste robe, non disdegno. No, certo, hai ragione. La riflessione, no, anch'io me le guardo tutte, ma comunque bisogna sempre guardare e leggere tutto. Ma anche, non so, banalmente una notizia di contemporaneità, come dicono nel loro dei Balcani, leggere. Poi bisogna sempre fare la tara su chi, dove lo stai leggendo, chi l'ha scritto. Quindi non prendere tutto per oro colato, ma ragionare su ciò che leggi. Cioè, se no, non ha senso. Lo stesso vale per la fantascienza, per quegli spunti che ti può dare e analizzare anche quello che ti circonda. La questione della maschera, dici tu, è effettivamente molto figa e interessante, perché se ci pensi, c'è la maschera di... Ma la maschera, per esempio, è l'incoso della casa di carta? Sì, certo. E in modo diverso, perché non è rivoluzionario per niente... Ma comunque, secondo me, ha anche la questione della maschera di... come si chiama quello coreano che di poco fa il gioco del polpo, il gioco del calamaro, come si chiama? Sì, ho presente, ma non mi viene assolutamente anche il nome. Anche lì maschere, no? Che sì. E anche lì spopola la maschera. Quindi la maschera ha una fascinazione. Certo, perché è qualcosa di ancestrale. È qualcosa di ancestrale. Non la maschera, però ecco, tipo anche la maschera dello Sturmtruppen di Guerre Stellari. Cioè questa maschera che ti rende uguale a tutti, in qualche modo. Forse ti dà la possibilità di fare quello che non faresti altrimenti. Il problema è che è bene bene o male male, nel senso se dietro alla maschera non c'è un contenuto, che poi è questo, cioè Alan Moore gli dispiace questo. Ma tra l'altro no? Mi viene da dire pure che poi Alan Moore aveva, insomma, è una persona estremamente intelligente, le opere che fa sono anche molto profonde, e nel scegliere Guy Fawkes e la rivolta alla congiura delle polveri c'era anche una grossa amarezza di sconfitta, un grosso sentimento di sconfitta. Cioè non è un caso che lui non ha portato ha preso un personaggio vincente, ha preso un personaggio che in sé contiene sì un anelito di speranza e di rivolta e di rabbia, ma che sappiamo come è andata a finire, e non è andata a finire bene. E quindi questa doppiezza, questo sentimento del ma io lo so che andrà male, ma io ce lo devo fare lo stesso, e l'urgenza ce l'ho la stessa. Ecco, chiaramente Alan Moore ce l'aveva bene in testa, e chi legge le sue opere, secondo me, alla fine gli rimane in testa. tutto ciò chiaramente nelle versioni hollywoodiane o edulcorate non arrivano, quindi poi cioè, mi viene da pensare appunto la maschera di Guy Fawkes venduta al mercato a caso, purtroppo c'è chiaro che tutto ciò non gli arriva. Forse è anche un modo capitalistico per disinnescare certo. La possibilità che diventino qualcosa di più che una maschera, poi una carnevalata quasi. Un po' sì. E lo stesso, sì, anche lì nella versione delle sorelle c'è la marcia finale con le maschere. Terribile, il finale è terribile. Dove i soldati alla fine non sparano, allora sono gli eroi e i cittadini compaiono anche quelli morti. Allora lì ci sarebbe la simbologia interessante, cioè tu sei lì anche per chi ha subito la repressione. Però è disinnescata totale, questa cosa. Totale, ma infatti guarda, il film secondo me fino a un certo punto potrebbe andare bene, poi il finale sì. Veramente... No, secondo me hanno abbastanza... La figura di lui non è niente male, perché... effettivamente è un qualcuno che è proprio fuori dagli schemi, quindi molto teatrale, molto, cioè, sembra qualcosa di altri tempi, quindi sì. Anche forse una speranza, perché il vecchio forse era meglio, non lo so, ci ho visto tanto ecco nella figura di lui. Il resto no, il resto un lei po' sì, va bene, ma sì, però un po' un contorno, esatto, purtroppo è una figura di contorno in qualche modo. Sì, devo dire, appunto, sì. Cose che hanno fatto dopo sono state meglio, secondo me. Ma vabbè, poi ci arriveremo. Non so se vogliamo far sentire un brano. Chicca questa cosa. Perché c'è in realtà questo brano, leggevo preparandomi appunto la puntata, che Alan Moore, che fra l'altro era, come dicevamo prima, intriso di cultura punk, di sottoculture, ma non in maniera così cerebrale e accademica, proprio per davvero. Tant'è che sempre nell'84 incise un disco insieme al bassista dei Bauhaus, David Jay, che si chiamava proprio V for Vendetta, e molto bello, tra l'altro i Bauhaus secondo me potrebbero davvero essere la colonna sonora perfetta per Vendetta, e quindi sì, ci siamo andati a recuperare questo disco e vi facciamo sentire This Vicious Cabaret, che probabilmente è il brano più famoso e che però è proprio didascalico di V per Vendetta. Enjoy! On Broadway, they say that life's a game, and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story, then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties, there are wands, forms, and chitties, and a jackboot on the stair. Sex and death and human grinding, monochrome for one thing down. At least the trains are run on time, they don't go anywhere. Facing their responsibilities, either on their backs or on their knees. There are ladies who just simply freeze and then are turned away. And the widows that refuse to cry, be dressed in garter and bow tie, be taught to kick their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, dropping the print out prints and stays, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed a nation's throat. He hungers in his secret dreams, a heart embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl who puts goodwill on show, is desperate for her father's love. Believes the crown beneath the glove is what she needs to hold. But she doubts her husband's morality. She decides that she is what he is in the land of doing as she pleases. And outside in the cold, the backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. They are at last in 1998 show, the Todd song no one ever sings, the curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets screaming by the screen. Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser, fantascienza e rivoluzione. E dicevamo, più o meno abbiamo esaurito questo micro sotto argomento, qui eravamo appunto nelle rivolte contro i costrutti sociali, un po' generali, anche per vendetta fondamentalmente si ribella contro tutto un sistema intero, e in realtà invece ci propinquiamo a aprire l'ultima parte della puntata di oggi, dove parliamo di ucronie e resistenza. Quindi qua entriamo in un altro sottogruppo che a sua volta potrebbe contenere 7 ore di puntata, ma noi correremo un po' per non dover fare una terza puntata. Ma partiamo da China Mieville, il grande eroe, come ho detto varie volte, insomma, di cui abbiamo parlato spesso. Se ve lo siete perso, c'è una puntata dedicata in cui parliamo io e Tuco dei nostri eroi rispettivi, e quindi dedicata a Ursula Le Guin e China Mieville, e quindi lì ci siamo un po' sdoganati, ci siamo liberati. Quindi non ve la faccio tanto lunga su China Mieville, dando per scontato che se volete ve l'andate a sentire, ma vi raccontiamo Gli ultimi giorni della Nuova Parigi, che è un libro molto curioso, molto strano, come spesso accade nei libri di China Mieville. È un libro che non saprei come definire, sicuramente New Weird è un po' il filone che gli si potrebbe appiccicare. Sicuramente non rientra nella fantascienza classica, sicuramente non parla di alieni e invasioni spaziali, ma è in qualche modo anche un'ucronia, e parte dalla fascinazione palese e dichiarata di China Mieville verso tutto il movimento dei surrealisti e delle surrealiste, un movimento interessantissimo che ha caratterizzato il pre-guerra e il subito i primi anni della Seconda Guerra Mondiale a Parigi, ma non solo, ha avuto, insomma, è andata fino in Messico, in Sud America, ha avuto ramificazioni in varie parti del mondo. Ma il surrealismo, oltre a essere una corrente artistica, letteraria, poetica, ha preso varie forme di linguaggio, è stata una corrente politica sicuramente moltissimo, e i surrealisti e le surrealiste si definivano rivoluzionari, in qualche modo lo sono stati, avevano poetica che non poteva esistere se non attraverso uno stato di continua rivolta e di tendenza al sovvertimento dello stato esistente. Per sua natura il surrealismo deve sovvertire l'iperrealismo e il realismo, fonte di molti mali, a loro dire, secondo me hanno ragione da vendere. Ecco, tra le varie cose, China Mieville, palesemente estremamente affascinato da questa corrente, fa riferimento in particolare, perché lo cita proprio, questo gruppo, Le Manaplume, che era un gruppo politico che tra il 41 e il 45 in Francia stampò e diffuse questa rivista surrealista, ricordiamolo, nella Francia occupata dai nazisti, quindi insomma molti surrealisti e surrealiste avevano scelto la via delle armi, anche della resistenza armata contro i nazisti. Loro lo facevano anche attraverso questa rivista clandestina, che insomma non era proprio semplice. La Mena Plume è, tra le altre cose, protagonista di questo libro, Gli ultimi giorni della Nuova Parigi, e la trama è molto strana, è molto intricata, e si parla un po' di... fanno riferimento a quello che era proprio dichiaratamente l'obiettivo dei surrealisti, ovvero liberare le forze psichiche e farle scaturire dall'inconscio liberato. Cioè, se noi individui riusciamo a liberare il nostro inconscio da tutte le catene del mondo e del sistema che ci opprime, da questo inconscio liberato ne verrà fuori una forza creatrice enorme, capace di rivoluzionare il mondo. Questo ci credevano moltissimo le surrealiste e i surrealisti, e Chana Mieville si immagina una Parigi completamente ribaltata, dove in realtà fondamentalmente le cose non vanno assolutamente come poi sono andate in realtà. E ricordiamoci che, ecco, antefatto che devo dire, tutto ciò non era, insomma, aveva delle radici ben precise, perché appunto Breton e vari surrealisti, come dicevamo prima, erano effettivamente, avevano preso la via della resistenza armata insieme a Trotsky, tra l'altro, insieme a tanti altri, insomma, avevano fatto un manifesto surrealista, era qualcosa di estremamente politico. Ecco, Mieville prende tutto ciò e lo butta in questa Parigi. Si immagina che poco dopo l'occupazione tedesca André Breton, quindi uno dei surrealisti più importanti, incontra Aleister Crowley, noto satanista e occultista da cui dovrebbero essere derivate moltissime cose, e insieme a loro si incontrano degli ingegneri, dei tecnici e degli vari appassionati di occulto, maghi vari, e riescono a un certo punto a realizzare questa bomba S, che è un ordigno pazzesco che fondamentalmente dà vita al sogno surrealista, e quando esplode diciamo rende reali tutte le creature immaginate nella mente dei surrealisti. Quindi con questa cosa finalmente si riuscirà a rivoluzionare il mondo e a sovvertire lo Stato, e quindi fondamentalmente vincere contro i tedeschi e contro i nazisti. Ecco, questa cosa non va proprio bene, non va proprio come se l'erano immaginata, nel senso che questa bomba sì, esplode, fa un casino della Madonna, fatto sta che sovverte tutto, ma un po' troppo, tant'è che piega le leggi della fisica, di tutto, e quindi questa Parigi particolare, strana, invasa da queste forze strane, mistiche, occulte, questi mostri, queste creature fantastiche, è una Parigi che fondamentalmente è un enorme terreno di lotta, dove si ingaggiano battaglie continue, ed è invasa da queste creature uscite dalla mente dei surrealisti. E quindi c'è queste proiezioni che sono poi fondamentalmente metafisiche, ci sono questi quadri, cioè prendono forma proprio tutto il catalogo. Cioè, Mieville questo è veramente un nerd pazzesco, perché prende tutto il catalogo surrealista e lo butta in questo libro, per cui iniziano a scontrarsi, per esempio, la donna senza testa, quella fatta con tutti i cassetti lungo il corpo di Dalì, no? Famosa di Dalì, oppure i branchi di tavoli lupo di Browner. Ci sono questi branchi di lupi che in realtà sono tavoli lupo, che era un'altra creatura uscita dall'immaginazione di un altro surrealista, Browner. E insomma, ci sono tutti questi mostri che iniziano a combattere contro i nazisti. Mostri contro i nazisti, bellissimi. Un po' tanto, nel senso che poi anche i surrealisti iniziano a essere un po' che non sempre questi mostri sanno bene chi sceglie, cioè poi magari ingoiano anche loro, insomma. È chiaro. La fantasia, quando la liberi, l'inconscio, quando lo liberi, non si sa, poi magari si sbriglia un po' troppo. E questi, tra l'altro, altra citazione molto interessante, che questi mostri si chiamano Manif, che sono, da un lato, è una citazione, da un lato ai manif, appunto i manifesti surrealisti, ma dall'altro è il modo con cui i francesi anche adesso chiamano le manifestazioni, il modo gergale con cui vengono detti cortei, quindi il riferimento anche qua è estremamente politico, estremamente di strada. E ovviamente il mostro più totale, feroce di tutti è il cadavere squisito, la creatura tipica dei surrealisti, era quel gioco che veniva fatto dalle surrealiste e surrealisti per creare, dare vita a dei giochi letterari e non solo. Non so se ci avete presente, che cadavere squisito è quella cosa per cui in gruppo ci si mette lì e uno parte da una parola, l'altro senza vedere la parola precedente, cioè senza vedere quelle prima, vede solo l'ultima, va avanti, ne aggiunge una fino a quando non si crea una storia di fondo. O il disegno, anche funziona anche il disegno. O un disegno, sì. Che fai la testa e si vede solo il collo, lo pieghi e quello dopo fa e viene fuori. Incredibile. Ed è da questo modo che avevano i surrealisti per cercare di non essere condizionate, e quindi avevano questo modo di provare a creare cercando di rifuggire i condizionamenti sociali. Insomma, ora, il libro di Mieville è un casino, ve lo dico, cioè io che sono una grande fan ho fatto fatica, perché comunque è una citazione continua e se non sei in fissa con le surrealiste, ecco, effettivamente fatichi un po'. Ho il sospetto, avvalorato anche da alcuni articoli che ho trovato su internet che mi hanno confermato i miei sospetti, che la traduzione italiana faccia schifo, cioè io ho questa... A chi è edito? Sai che non... Fannucci? Allora è bella risposta. Ci siamo già ridetti. Torna tutto. Ora non mi ricordo chi l'ha tradotto, però posso dire sinceramente che è molto faraginoso ed è proprio faticoso. E Shana Mevel non scrive così normalmente, quindi secondo me è proprio una traduzione particolarmente tirata via. E quindi niente, purtroppo è un po' poco godibile. Secondo me una buona parte della colpa è per la traduzione. Non sono in grado di leggere la versione inglese, quindi me la terrò così. Però, speriamo che venga comprato da una casa editrice che ci spende un po' più di soldi nella traduzione. Purtroppo la Fanucci c'ha questa roba qua. A volte, non so se l'avevo detto qui o mi sono lamentato solo dal vivo, ma The Ringworld, la serie The Ringworld, mamma mia, proprio coi piedi fatta. No, una roba, cioè piuttosto non lo pubblicare, secondo me. Ah, vabbè, finito la mia disamina, ecco. Sì, volevo aggiungere, ma non ho trovato. C'è un videogioco molto carino che ricorda un po' Mieville, questi mostri surrealisti in questa, mi sembra, città, non so se proprio Tokyo, una città giapponese, e tu impersoni dei personaggi che combattono e lì. Però mi ha molto ricordato le immagini che stavi raccontando, quel videogioco lì. Quindi probabilmente è preso, però ora non ho ritrovato il titolo, dirò la volta prossima. No, ma poi è divertentissimo anche quello, cioè proprio certo. Battaglie continue, molto buffo. E a proposito di videogiochi, già che ci sono, esempio negativo, perché non vi sto dicendo un esempio iper negativo, è Homefront. Allora, innanzitutto, in questa nostra disamina di ucronie, tendenzialmente c'è sempre qualcosa che non va e che gli Stati Uniti le pigliano in faccia, perché poi no, è un po' questo. Ora, nel caso tuo era Parigi, perché, diciamo, ancora non c'era l'idea vivida, cioè è sempre Seconda Guerra Mondiale, ma vista più appunto all'interno dell'Europa. Homefront invece è bellissimo. Corea che invade Stati Uniti in America e vince. E però male, perché tu impersoni la resistenza americana contro i coreani. Oh, sì, mamma mia. Sì. È un gioco tra l'altro bruttissimo, cioè proprio fatto male. Uno schifo, l'avevo preso usato, una bancarella, l'ho giocato, dura neanche niente, cioè proprio un troiaio. Però anche questo è un esempio di ucronia appunto che ti vivi diversa e dove sei a tutti gli effetti sei la resistenza, c'è poco da fare, sei gli americani che resistono contro i coreani, però vabbè, diciamo allora una volta nella vita se la vivono loro sta cosa. Esatto. E invece poi arriviamo al grande meraviglioso esempio che appunto riprende la Seconda Guerra Mondiale, comunque come è giusto che sia è stato un incubo per tutto il mondo e continua a esserlo, tra l'altro, e continua a esserlo. E quindi chiaramente le ucronie riguardo alla seconda guerra mondiale l'hanno, insomma, ci sono spesso e volentieri. E spesso e volentieri la grande paura era appunto che vincessero i cattivi, quelli che sono stati denominati cattivi, che lo erano effettivamente. Poi bisognerebbe ragionare su buoni, ma quello è un altro discorso. Accidenta è meglio. Esatto. Dove vincono i nazisti, o vincono, o comunque l'asse in generale. Stiamo parlando chiaramente di Philip Dick e della svastica sul sole. Di cui hanno fatto anche l'adattamento cinematografico sotto serie, che è The Man in Red Castle. Non brutto, tra l'altro, io non l'ho visto tutto, non ma neanch'io. Un po' mi sono rotta con gli annoiato però, a me. Però all'inizio mi ricordo che qualche puntata l'ho vista e non mi era dispiaciuta, dai. No, poi comunque sono produzioni con buoni attori, con delle scritture decenti e comunque fatti bene, c'è soldi dietro, fatti bene, insomma, ci può stare. Però leggere il libro, quasi sempre conviene leggere il libro. Ma soprattutto con Dick, dai. Soprattutto con Dick. Plot veloce, è un'ucronia, quindi Roosevelt è stato assassinato, ma nel 33 da Giuseppe Zangara. Bellissimo, tra l'altro io non la sapevo sta storia del tentato assassino di Roosevelt. E poi lui, porino, c'è un anarchico. Che comunque è vero che non è riuscito a ammazzare Roosevelt nella realtà, parlando. Ma in realtà comunque ha ammazzato il sindaco di Chicago. Cioè così, cioè perché ha sparato, però era molto basso, è riuscito a prendere male la mira. C'è anche qui sempre, ma perché siamo sempre così sfigati? Non lo so. Sta che insomma non ha preso Roosevelt, però ha preso comunque l'ha ammazzato il sindaco di Chicago. Forse è un po' presa dalla figura di, come si chiama, l'anarchico che ha ucciso Ferdinando Bresci. Bresci. Ha preso un po' da Bresci. E comunque ce n'erano in quel periodo, ce n'erano tanti. Ci provavano, loro ha detto, boh, ma si prova nel grande a un certo punto. E vabbè, niente, quindi questo però ci riesce, questo Zangara, e questo porta gli Stati Uniti a continuare nella Grande Depressione, nell'isolazionismo che c'era, e quindi non intervenire nella Seconda Guerra Mondiale. Non intervenendo, comunque Philip Dick è un americano. E oltretutto, insomma, cioè, aveva delle posizioni particolari. Cioè, poi è vero che fu vittima del maccartismo e tutto quanto. Però ecco, cioè, non era proprio un rivoluzionario. No, esatto. Cioè, boh, era troppo strano per poterlo incasellare. No, certo, è questo per dire che la non entrata in guerra degli Stati Uniti d'America è fondamentale, per cui il resto del mondo perde contro l'asse. Perde talmente tanto in giro per il mondo, ma tutto, anche l'Africa viene soggiogata, l'Asia in mano ai giapponesi, l'Europa chiaramente in mano ai tedeschi, tanto vincono che invadono a un certo punto l'America stessa. Eh sì, a un certo punto se vince e quindi se la spartiscono. Uno da una parte, uno dall'altra, lo invadono e si spartiscono in tre parti. Questo un chiaro ammiccamento alla divisione di Berlino nelle tre parti, insomma, che erano, poi erano due, ma in realtà erano tre effettivamente, cioè una governata dagli Stati Uniti d'America, poi uno degli altri alleati e quella invece dall'Unione Sovietica, e anche in questo caso appunto l'America viene divisa in due. Da una parte a ovest sono i giapponesi che governano con il loro essere giapponesi, quindi intransigenti, ma però se stai dentro, romantici, un po' romantici, se stai dentro il meccanismo bene o male in qualche modo ce la puoi fare. Di là invece nazisti, che sono nazisti, per cui c'è un po' da fare con nazisti. Sì, ci sono i tedeschi nazisti che fra l'altro decidono di mantenere formalmente il nome degli Stati Uniti d'America, ma fondamentalmente costituiscono a sud uno stato fantoccio razzista noto come il sud. E qui, cioè, Dick si leva un sasso dalla scarpa. Cioè, fondamentalmente trovano campo fertile. Esatto. Dicono, ma questo lo possiamo lasciare com'è, perché tanto, cioè, non importa fare grandi cambiamenti. Esatto. Invece al centro c'è la zona cuscinetto. Esatto, sì, un cuscinetto neutrale tra le due zone occupate. Sì. E poi c'è il Canada, che non si capisce bene perché, ma rimane, cioè, indipendente, cioè, nonostante che in realtà faceva parte degli alleati, insomma, tutto quanto. Fatto sta che non... dalla tua faccia deduco che ti è morto il computer. No, sì, perché di solito mi muore. No, è il computer quello che sta mandando la musica che... è morto, nonostante ciò, però la musica sta andando. Oh, ce l'ho fatta. No, sta smattando un po', vabbè, vedremo se no si tira giù e via. La musica la sento. Vabbè, insomma, il Canada non si è capito bene perché, ma si riesce a mantenere indipendente. E poi bellissimo l'Italia, che non conta un cazzo mai. E Dick giustamente dice: sì, vabbè, l'Italia. E quindi l'Italia fascista, siccome nella guerra comunque non è riuscito a cioè comunque non è riuscito a fare niente, cioè anche il tentativo di colonia, cioè un disastro, sì. Cioè proprio non sono credibili mai. Allora, fondamentalmente rimane subordinata al Reich tedesco e gli danno dei magri compensi e una piccola colonia in Medio Oriente, quindi proprio robetta. Vabbè, beh, liberi però, liberi nel loro fascismo. Sì, sì. Tra l'altro i padri dei nazionalismi. Loro l'avevano bellissimo. Pensata. E quindi questo è il plot, un po' un'ucronia totalmente... ucronica, appunto, dove è proprio all'incontrario di quello che è successo. Ah, tra l'altro, scusami, c'è anche il fatto che Hitler in realtà ha vinto, ma è estromesso perché è malato di sifilide, sì, quindi è matto. Bellissimo. Nuovo cancelliere, nuova via. Scusa, non dimentichiamoci, perché è un'ucronia, anche distopia in qualche modo, anzi forse più distopia, e la tecnologia però va avanti, quindi viene sviluppata tutto quello che, tra l'altro, no, si è formata tutta una letteratura, una leggenda dietro alle grandi tecnologie naziste, soprattutto appunto ai razzi ultraveloci spinti dalla, vabbè, non mi viene, a reazione. No, non mi ricordo. Insomma, la cosa a reazione. Per cui cominciano non solo a creare dei razzi intercontinentali, cioè non aerei, ma razzi intercontinentali per spostarsi da una parte all'altra, ma vanno a conquistare Luna e Marte. E anche Venere. Ah, brava, sì. Venere anche. E tra l'altro, così buttata anche lì, realizzano il progetto Atlantropa, realmente esistito tra le varie follie naziste. Di prosciugare il Mediterraneo, quindi prosciugare. Ma perché? Non ho ma capito. Ma che cazzo ne so, tra l'altro? Per coltivare. Boh. E sì, e fanno anche quella. Grande cazzata, tra l'altro, proprio il Mediterraneo fra, cioè, tutti. Ma voglio dire. Vabbè, esatto, quindi anche questa cosa del prosciugamento. Quindi, insomma, tecnologia bella avanzata, però in tutto ciò il problema e il nucleo di tutta questa storia poi in realtà non è qualcosa di tanto tecnologico, no? È un film. È vero, è cioè, vero. È una pellicola addirittura. È vero, è vero. Ma infatti la storia, a un certo punto, senza che la andiamo a raccontare tutta, comunque fondamentalmente la nostra storia, questo era un po' tutto l'antefatto in realtà, tutto quello che avviene prima dell'inizio del libro. Il libro La svastica sul sole fondamentalmente inizia nel 62 a San Francisco. E il protagonista, anche qui, è un protagonista modesto, umile. Non mi ricordo, lui lavora, è un libraio, no? Che fa? Ora mi sfugge a cambio, mi sembra di sì. Ma e c'ha una serie di incontri fortuiti, come abbiamo visto in altri, anche in Essi vivono, tra l'altro, ma anche in altri opere che abbiamo citato. Sì, ha una serie di incontri fortuiti e inizia piano piano a entrare in contatto anche qui con una realtà, la realtà vera, e apre gli occhi e da lì inizia a ribellarsi, entra in contatto con una resistenza sotterranea e da lì si dipana tutta la trama che non vi stiamo ora a citare. Però vabbè, è figa questa cosa. Quindi qui c'è una resistenza contro plurime dittature, e chiaramente alla ricerca della libertà, però alla ricerca anche proprio della memoria, in qualche modo. Sì, è vero, perché non ci si ricorda più cos'era prima la vita, prima dei nazisti, prima di questo sconvolgimento. E tra l'altro la cosa molto bella è che Dick in questo libro si immagina veramente, descrive tutta la quotidianità, le piccole cose, non è tanto un... Ecco, al contrario un po' di quello che abbiamo visto prima con Chennai Evil, no? Dove lì c'erano le grandi battaglie continue. Qui non ci sono battaglie, qui c'è la resistenza quotidiana, i sotterfugi, i modi in cui si cerca di sopravvivere all'interno di uno stato oppressivo, quindi come si riesce a comunicare gli escamotage e anche come ci si aggrappa appunto a quelle piccole cose che ci ridanno fiducia, che ci fanno vedere le cose come potrebbero essere o come erano state, e anche quei piccoli semi che poi, se coltivati, ti portano a ribellarti, insomma. Esattamente. Molto fico da leggere, assolutamente. Vabbè, Philip Dick in generale è uno dei padri fondatori, in questo caso padri, è giusto dirlo. Sì, tra l'altro, ora lo diremo, vi faremo, cioè, comunque una testa così su Philip K. Dick, perché insomma, dai, dobbiamo farlo. Quello che possiamo dirvi, anticiparvi già ora, è che comunque la svastica sul sole, così come moltissimi libri, se non tutti, di Dick, sono, lui li ha scritti a partire dai Qing, cioè comunque lui consultava continuamente il libro dei Qing per capire che svolta darà la trama. Quindi a un certo punto scriveva un pezzo, poi consultava il libro dei Qing, a seconda di cosa gli rispondeva il libro dei Qing, andava in una direzione o in un'altra. E quindi è buffissimo questo modo di procedere, non si capisce com'è possibile che non sia una cagata pazzesca, e invece torna tutto ed è molto avvincente. Fico, forse in conclusione, ma comunque rimanendo in tema, volevo raccontare velocemente l'opera di Roth, di Philip Roth, più recente, 2004, che è invece Il complotto contro l'America. Ganzo, anche quella è un'ucronia in cui, di nuovo, la Seconda Guerra Mondiale non è andata come doveva andare, anzi, nel 40, le elezioni del 40, se non erro, sì, le elezioni del 40, vince Lindbergh, Charles Lindbergh, che era noto antisemita, che fondamentalmente sceglie di rimanere neutrale nella Seconda Guerra Mondiale e anzi stringere un patto di non belligeranza con i nazisti. Quindi non solo non belligeranza, ma proprio avanti. Oh, meglio che era troppo lontano. Esatto, e quindi insomma fondamentalmente le sue elezioni portano al posto di Roosevelt, quindi le sue elezioni, che Roosevelt sarà invece, no, una delle figure della Seconda Guerra Mondiale, della lotta insieme, anche più attive, insomma, sì, esatto, vince invece questo invece Lindbergh, e quindi porta avanti tutta una serie di politiche anche antisemite all'interno degli Stati Uniti d'America. Infatti la vicenda è vista dal punto di vista di un ragazzino ebreo, se non sbaglio, per buona parte del libro. No, cioè per tutto il libro, appunto. E quindi non sviluppano neanche la bomba atomica? No, mi sembra di no. Ma poi vabbè, rotta alla fine, interessa più la questione ebraica, palesemente. Certo, se certo. La bomba atomica importa un cazzo. E, insomma, storia interessante, anche qui appunto ucronica. Insomma, in seguito, insomma, ci sono un po' di pogrom, diciamo. Quindi fondamentalmente, per esempio, anche qui il Canada comunque è una figura, oh, è vero, ricorre, che ricorre, per non esempio, gli torna, secondo me, a chi sta negli Stati Uniti, il Canada non gli torna neanche ma come scusa, io se parlo di Canada e Stati Uniti mi viene in mente i Griffin, no. South Park, South, certo. Park sono, certo, incredibili, certo, anche a me subito. Anche un po' i Griffin, tutte e due. Sì, anche i Griffin, è vero, effettivamente. Niente, il cugino, per esempio, decide di andare a arruolarsi nelle forze militari canadesi che cercano di combattere lo strapotere della Germania in Europa. Quindi in qualche modo vuole andare lo stesso. Però perderà una gamba e bla bla bla. Intanto ci sono, per esempio, familiarmente ci sono scontri, perché chiaramente questo è un governo democraticamente eletto, quindi nel senso, non è che per forza... si deve. E poi questi pogrom si avvengono, non è proprio il presidente a dire sì, fateli, quindi è lui, non è lui, quindi anzi c'è, vengono prendono parte a questi congressi, si chiamano Just Folk, Folks, progetti sponsorizzati dal presidente, e cercano apparentemente di integrare gli ebrei nella società. Quindi il presidente di facciata vuole farli integrare, ma in realtà li vuole individuare, separare fra di loro, distruggendo i ghetti, separandoli, per appunto annientarli in qualche modo. E quindi insomma c'è tutta questa vicenda qua. E quindi, scusa, il complotto contro l'America è il complotto contro questa America? Perché ti dovrei dire il finale? No, non me lo di. Non te lo dico. Si sa mai. Il però c'è il complotto è alla base un po' di tutto. Diciamo che Lindbergh non è proprio quello che crediamo che sia. Non è così immediato il passaggio fra Lindbergh cattivo antisemita. C'è qualcosa di più rispetto a questo. Vabbè, dai, non dico altro. Andatevelo a leggere se volete. O leggetevi un riassunto. Su Wikipedia, che tanto ve lo dice lo spoiler. Sì, su Wikipedia c'è scritto come va a finire. Però anche questo, appunto, era un ulteriore esempio più recente, sempre di ucronia e resistenza all'interno dell'ucronia. Perché in questo caso, diciamo, è una resistenza meno classica armata di per sé, anche se ci sono comunque le armi, ma c'è una resistenza sociale di qualche genere. Insomma, è un libro un pochino più controverso, chiaramente, però ci stava ad inserirlo, certo, tra gli esempi. Certo. Va bene, direi che siamo arrivati in fondo a questa maratona dedicata alla rivoluzione all'interno della fantascienza, quindi ai vari modi in cui si è parlato di questo tema all'interno della fantascienza e affini. Come abbiamo visto, ce n'è per tutti i gusti e, insomma, noi chiaramente abbiamo aperto solo un piccolo tombino, perché poi ce ne sarebbero milioni da dire, anche perché già definire rivoluzione è qualcosa di difficile, figuriamoci se la fantascienza si esime dal dipanarlo in mille modi. Quindi vi diamo appuntamento a questo punto, direi, tra due settimane, quindi il 3 giugno. Già giugno, bisogna prendere antizanzare qua, perché l'hai detto prima e sono arrivate tutte. Ho aperto la finestra. Poi piove, ora ciao. Addio. Quindi quindi ci troverete qui su Radio Wombat, intenti a schiacciare zanzare. Parleremo di fantascienza e zanzare. Sì. Zanzare con le zanne. Sì, esattamente. E quindi niente, alla prossima, rimanete sempre in ascolto di Radio Wombat e alla sua varia programmazione. Varia programmazione che si estende anche su altre sorelle, gemelle, gemelle sarebbe forse eccessivo, sorelle, attraverso i ponti radio, ma non solo, come il furto delle trasmissioni altrui, come sapete. A questo punto è anche ricevuto, cioè prima eravamo solo noi che rubavamo, ora è reciproco. Esatto, facciamo trend in questo senso, quindi insomma veramente offerta amplissima per tutti i gusti, quindi niente, continuate ad ascoltare Radio Wombat o comunque le radio pirata che ci sono qui in Italia. A presto. Wombat! Viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. Il sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.